Si tratta di cantieri che sono inseriti nei 24 milioni di investimenti che avevamo annunciato con la Città 30. 9 milioni su 24 sono completati, 8 in corso e i restanti in via di progettazione. Abbiamo ritenuto di fare questa conferenza stampa prima della pausa estiva per dare informazioni appunto su quelli che saranno i prossimi cantieri a partire. Alcuni già nella metà di questo mese, soprattutto parliamo di cantieri che serve anche anticipare, magari perché c'è un tema di riapertura delle scuole, altri anche a partire dall'autunno, quindi i luoghi principali saranno appunto via Toscana, il ponte di San Donato, dove finalmente le biciclette vengono separate dai pedoni, quindi i marciapiedi esistenti resteranno pedonali e si costruirà una nuova pista ciclabile bidirezionale sul lato sinistro andando verso la periferia, senza compromettere l'utilizzo carrabile e la presenza della corsia preferenziale al centro del ponte. Ci saranno poi altri interventi importanti in zona Mascarella, in zona universitaria, soprattutto sui doppi sensi ciclabili, in zona di Porta Saragozza e via di Frassinago, e oltre a questi vari interventi puntuali, soprattutto di messa in sicurezza degli ingressi scolastici. Senta, uno studio del MIT focalizzato sulla città di Milano dice che le zone 30 aumentano l'inquinamento. Lo studio del MIT è uno studio di scenario che immagina che la città di Milano, che oggi non è una città 30, sia interamente una città in cui si va mediamente ai 30 all'ora. Ci sono anche tanti studi che non sono studi di scenario, ma sono invece rilevazioni sulle città 30 esistenti e che mostrano come dopo la trasformazione di città che non vanno interamente a 30, ma che mettono a 30 una parte della loro rete stradale, ci siano vari benefici, fra cui anche benefici ambientali. Ricordiamo però che il beneficio principale è quello di avere meno incidenti e soprattutto incidenti meno gravi, quindi la salute delle persone. Senta, è stato detto che Città 30 in pratica non viene più rispettata, avete smesso di fare i controlli? Non abbiamo smesso di fare i controlli, ma Città 30 è un insieme di provvedimenti che costruiscono complessivamente un cambiamento culturale, quindi c'è bisogno di tempo e questi provvedimenti sono complementari fra di loro. Anche gli interventi che abbiamo annunciato oggi sono interventi che vanno nella direzione di rendere più chiara e più facile la convivenza in strada di pedoni, ciclisti e automobilisti, e questo va da sé, richiede una maggiore lentezza e uno sforzo di attenzione maggiore da parte degli automobilisti, ma non penalizza nessuno e quindi alla fine attraverso gli interventi, attraverso i controlli, attraverso le campagne, insomma con tutto l'insieme dei provvedimenti che stiamo mettendo in campo, compresa la costruzione della linea tranviaria, avremo una città con una mobilità diversa e a velocità ridotta. Allora, noi rileviamo questi dati costantemente, abbiamo detto che faremo presto un bilancio sui dati, quindi non c'è, ma non ve lo dico adesso. Ha detto che i dati, insomma, li darete più avanti, però dopo poche settimane dell'inizio dei controlli c'è stato un sensibile calo degli incidenti anche gravi, si conferma questo calo? Ma adesso lo vedremo, comunque in generale noi sappiamo che su tutti i provvedimenti di mobilità i dati da considerare sono sempre dati di medio-lungo periodo, quindi bisogna armarsi di pazienza ed essere costanti e fermi nelle proprie convinzioni, i dati li vedremo.